ascoltando. Attenzione Eugenio, mi ascolti, cambio. Allora, te lo ricordi il microfono che mi hai dato, Luigi? Aspetta che sto facendo una cosa, dammi il segnale adesso. Ora, ora, ora, ora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chiama Sassari, avanti. No, sei sempre in radio, che tempo che frega. Cosa c'ho? Non c'è il radio, tutto cupo, sì, ma cosa ci attendi? C'è un apparecchio che avevo fermo, Claudio, lo sto facendo girare il sì, ma fallo girare, mettilo sotto sopra però. Poi io sono qua, sono al computer. No, già non mi piace. Bruttissima, bassa, cupa, mamma mia, che radio è? Alan 48 Plus, omologato. Poi, fai come ho fatto io, già mettilo dentro l'armadio, va. Però mettilo sotto sopra. Sì. Adesso lo faccio scaldare un po', dai, l'ho pulito, fatto, adesso ho passato l'attacco del microfono, cazzo, io già più non devo mancare più in casa. C'è il radio, già non lo so se c'è qualche problema, il microfono, non so, sei basso, ma cupo, cupo, cupo. No, non stai uscendo Eugenio, hai sbagliato i collegamenti tu. No, c'è la portante ma non c'è la voce. Inverti il filo. Che cosa gli hai messo Gianni? Che microfono gli hai messo? Siete belli con 4V, cosa sarà con 8? Perché sono tanti, a quanti attacchi? A 4? Dove sono tanti? Una volta che metti a posto la massa, 2 sono me. Ricezione e trasmissione, non è che vi voglia assai. Dobbiamo vedere se i colori corrispondono. Se i colori corrispondono, io non ce l'ho più il coso a 4 dei numeri. Massimiliano mi sembra che ce l'abbia. Se ricorda a memoria quello a 4. Capito? Quando entra lui chiedeva a lui. Perché se rispetti i colori, mi pare l'1 andava il rosso, il 2 andava il nero, il giallo andava al 3 e al 4 ci andava il cos'è, il giallo, non la metto. I colori bisogna vedere, Massimiliano forse ce l'ha quello schemino. Avete parlato in 2, chi è? Già, se sei tu non sei uscito. Basso, basso, basso, basso, radio 1. E vabbè, sto usando quelle baracchino, va 3 watt, 4 watt. No, non è radio già. Chi è? Poi, Virillino. Ehi, come va? Come i vecchi, e tu? Soprattutto se non si ingreffa, va, se non si ingreffa, se non si invecchia, è un casino. Sto provando un baracchino di quelli che c'ha di riserva, perché quelli buoni già si fa sentire. Sempre uguale, sì, Sabato. Santiago è 5, non so dove sei, ma la radio è sempre quella. E allora già va bene. E oggi lo senti a Salvatore? No, quello è a Sosso, questo è Birillo, Birillo. La Palmadova. Basso, basso, ti accoppia, basso, basso. Come stai? Già trebbiando stai, Salvatore. Secco, tutto secco, c'è un piove, cosa vuoi che sia quell'acqua che ha fatto? Non è niente, e si conferma, Gianni, doppio root, cosa c'è in combinendi? Eia, ciao Birillo, come va? Mezzugai, lavorando stai? K, adesso meglio va. Quell'apparecchio Claudio lo so, va bene con l'MB più 5, l'avevo già provato, poi me l'ho venduto e non l'ho più messo in stazione, però con l'MB più 5 schicchiava forte. Io lo so, anche io ce l'ho, quella in 48, con il microfono normale non c'è, se vado di attacco il più 4, il più 5, vabbè, non lo so perché, con il microfono normale non rendono niente quei baracchini. Lo sai cos'è? Che ce l'avevo fermo un po' di tempo, l'ho aperto, gli ho passato un po' d'aria, l'ho pulito bene, i contatti e tutto quanto, l'ho richiuso e gli ho piazzato il microfono, che me l'aveva fatto Eugenio, quello originale, perché l'altro mi era caduto in terra e si era rotto, e ce l'aveva Eugenio. Me l'ha dato lui, su questo microfono qua. Però c'erano tutti i contatti da fare, c'era la stessa Spinottola. Adesso gli ho fatti i contatti, sono costato 3 ore perché c'è l'up-down, tutte queste cose qua, gli ho fatti i contatti, e non va bene il microfono, va a far Napoli, se lo sapevo gli avrei messo direttamente un altro microfono. Ma se ti ricordi, avevamo già fatto la prof, non fa pintare manco, così lascialo lì di riserva, può capitare, può servire, ma usa quelli buoni. Va bene, dai, che io continuo qua. Ciao Billy, piacere averti ascoltato. Ti lascio in compagnia di Gianni e di Eugenio, io un attimino me devo allontanare. Vai Salvatore. E dove te la trovi Billy? Ciao Claudio, ci sentiamo dopo. Dove te la trovi Billy? Cava. Stai arando? KK, adesso ti da un bel che non ti sentivo, come mai non stavi più accendendo? Perché adesso c'è il radio coronavirus, adesso ci siamo tutti, dai, siamo tutti rintanati in casa, me stai sparendo B, avanti Eugenio, K, c'è un apparato modificato, da ehi, abbarazzi lì, attenzione Billo, sceso sei, KK, B, e ogni tanto scompari, dai, forse ci sono degli avvallamenti, dipende sempre dall'apparato che dove li stai montando, tu dove li devi montare questi fili a 4, allora c'ha sicuramente gli stessi attacchi del Galaxy, sono praticamente i fili normali, ce ne presenti, devi invertire quelli sopra sotto, tutti e 4 qua, quelli sopra li metti sotto e quelli sotto sopra, invertili, basta provare a invertirli. So cosa dirti, io mi regolo così, per dire l'attacco Midland con la 4 normale non va bene sul Galaxy, devi invertire i fili di sopra, metterli sotto e quelli sotto sopra, e viene perfetto, sia quello sia il Cobra, il Magno, tutti quanti così sono. Prova, no, scusa, gli appoggi e vedi se esce di radio. Non ce l'hai delle pinzette, le attacchi con delle pinzette, provi e guardi se esce di radio. Tu adesso l'hai trovata la portante, metti quelli lì, se va bene in un modo, se non lo giri nell'altro, provi. Ah, non l'hai trovata la portante. Ma su portante, quanti connettori c'ho? Allora, se hai trovato la portante, è facile, no? Lascio quello nella portante, naturalmente devo lasciare la massa perché devo portare la massa, ma dopo la portante c'è attaccata anche la massa e gli altri due devi giocare. Ma ho dato a tutti dei burroni, si dà una, non c'è per niente il colore, magari sono alcuni installati per lì, per non ci pensare. Allora, quando tu lo riscaldi, quello è il mio disegno, no? Se poi non vedi che ho creato più abbastanza, ho creato più abbastanza, lo devi essere abbastanza. Può essere rosso e nero, può essere rosso e calza, può essere. E deve dipendere, se vedi che mi copro i due problemi, vedo la radio anda. Ma io non lo so, non ho mai collegato a questa parte. Bisogna fare le prove oggi, anche noi andiamo a prova, se non c'è il tester per provare, lo devi fare, devi cercarlo. I colori valgono solo quando il microfono della stessa radio, sono diversi da un apparecchio all'altro, capito? E dipende, sempre. È un apparecchio che può avere in un modo e un apparecchio ce l'ha nell'altro. ci sono che con la radio che metti con a beh collegare il microfono e a poco collegarlo a quattro lo collegi a tre, perché uno va cavagliato uno sull'altro, vuol dire la cappa del nero oppure la cappa del nero al rosso. Esatto, quello mi è successo con la LAN 42 Plus, che dovevi mettere la carta insieme al nero, mi pare. Cattrice di Di Gabbo non riuscivo a farlo. E poi c'era la carta insieme all'altro filo. A me che succede quello? Dipende dal tipo della radio. No, per dire, ne ho due ne ho che sono accavallato, due carta con nero, uno accavallato. Addirittura uno con rosso. Poi la burutto che si intende, fra. Si sente sottofondo un po' di burutto. Giusto. Basta, un casino. Tu lo senti, io c'entro. Siamo al piano di sotto. Avanti. Va bene, un pochino, dai, ti ascoltiamo bene oggi, dai, ben sentito. Radio Coronavirus. Kappa. Ciao, ben sentito, dai. Avanti, Franco. Capo, per me niente, non ho sento per niente, avuto un rischio. Poi, non so se mi ascolta. Super. Saluto anche io, perché non lo so. Avanti. Ma anche sul microfono amplifica un vento, sono più forti di te, lo sai, no? Ah, io? 1160. Quello è, che amplifica molto. Capito. Sì, vabbè, se non c'è niente di segreto non c'è problema. Avanti, Eugenio, là. Ha reso. Infatti, piano già ce la fai. Anche perché a Porto Torres mi sa che non vedi più che fa delle cose, no? Prima ce n'era uno via Sassari che vendeva roba per Marche, eccetera, eccetera, anche radio, antenne. Li faceva lui, poi ce l'ha messo, c'era un tecnico e via, quella lì, non mi ricordo più il via, prolungamento via Antonelli dove c'è il globo. E beh, in casa dell'amico due, o vai 5 minuti te lo fanno, loro c'hanno in testa e 5 minuti te lo fanno. Lo sai chi li fa anche gli attacchi? Coso? Radio TV, quello che c'è vicino alla Feria Belmonte. Antonio, ma non mi ricordo come si chiama il cognome. Quello lì li fa. Prima lui si è vantato che faceva le modifiche agli apparati dei camionisti. E allora, scusa di gusto, al condensino di Luvanzi. Perché vuoi mettere quello? Adesso che microfono stai usando? Le mie più 5. Non va bene questo. Avanti. Già, segnale radio per cortesia. Sei il solito che avevo un problema all'alimentatore. Aspetta che mi metto gli occhiali, la calice luce. Kappa. Ciao Eugenio, mi senti adesso? Anche io ti sento un po' meglio, là, diciamo così. Stavo essendo sottoalimentato. Me ne sono accorto perché ha parlato Gianni stamattina e arrivava a basso. Mi pare strano che arrivava sul Gianni, a giudizio. E allora ho dovuto smontare l'alimentatore. Era l'alimentatore, stavo essendo più basso, là, di voltaggio. Qua stai scendendo più forte di radio di tutto adesso, 9,25 sì qua. Perché adesso è l'alimentazione sua. Ah, io ne do 13 volts, andava così. Sì, ma stavo facendo con 9 volts stamattina. K. E qua aspettavo 4 secondi, ho controllato la vita quanto sono io. E 10, 12 volts, dai, sono 12, 13. E K, quindi sta arrivando meglio adesso, va. La radio sembra amplificata, e c'è più presente. Chi altro c'è in ruota, oltre a Eugenio e a te, Gian? Franco di Sorso. Franco di Sorso sta. Franco, mi ascolti? Sì, che ti ascolto. Segnale 5, radio 4. Scappa, va. Anda me. E non mi mettono a 13,8 liquido. Che tira più bene la radio. Così è adesso. Adesso non si può più regolare, è così. Ehi, perché ci vuole essere la prima da dentro e regolare. Era stabile lì. Se ne andava a 9 volt, già non credo che sia più basso. Beh, ma te ne accorgevi che si abbassava la luce? Da. Ah, sì, già. Eia, non ti si abbassava la tarina luce, è vero. Solitamente quando si attaliva il tetto si abbassava il cielo dello smitter. Non è a questo smitter normale, rimaneva blu, io vedevo tutto blu, normale. Me ne sono accorto dopo che lo strumento mi segnava 9 volt. L'ho aperto, l'ho pulito, sto quarto, l'ho attaccato dietro proprio dove ci sono le prese sue. Attaccato prima era attaccato l'affare della CNC, Garini, capito? Ed era instabile, invece con questo non si può regolare, perché ho messo l'interruttore in modo che non si possa regolare. Ho capito. No, il mio c'è un regolatore, ma basta non toccarlo e rimane sempre così, non è? Dicevo da un bel così. No, io ne ho sceso il Midland poco fa, l'ho usato un pochino, ma se non ho l'MB più 4 più 5, quel Midland non schicchia. La modulazione è cupa, va. Ne ha giocato subito, anche mi pare subito bocciato. Io devo dire che io, se avessi uno di quegli apparecchi lì, però che non abbia il coso digitale, a me mi piace a lancetta la situazione. Devo trovarlo un altro monogatto, per il momento va bene questo, al limite questo me lo metto in macchina. KK, avanti. Ci sentiamo bene, dai. Vai. Infatti mi ha parlato sopra, non ho capito cosa stava dicendo. Aspetta un attimino, caso oggi. Se non le vuole sapere di mettere antenna, arriva bene così, non le vuole sapere, abbiamo detto in mille maniere lui e non le vuole sapere. Avanti un pomeriggio. Vai, arriva bene, arriva bene la sua parte. Cazzo d'ora. Vabbè dai, un po' lì, ti sovrabbodula, io non riesco a capire cosa dici. È un po' più basso, dai, sei da 3 passi a 5, scappa. Avanti fra. Lupovigio ha un portatile, purtroppo non vuole sapere di mettere antenna, le abbiamo detto in tutte le maniere, ma non le vuole sapere. Lui si accontenta di parlare con una o due persone, poi gli altri che ci sono fuori non lo sentono, e cosa devo fare io? Avanti, oggi. Infatti ho parlato per me, non per gli altri. Arriva forte, nel senso che arriva molto più basso. Quando si mette nel terra arriva a 9. Quando, per dire, si mette giù arriva a 3, 4 al massimo. Capito? Quindi quando arriva forte arriva a 9 e lo sento bene io. E parli con uno. Io ho parlato per me, non per gli altri. Io lo so che tu non l'ascolti perché sei a portatore. Se lui avesse un'antenna come si deve, un apparecchio come si deve, lo sentiresti. vabbè, vabbè, non li puoi sapere. Avanti, fra, avanti. Ma cosa ne so, quelli intanto ne entra uno. Sì, vabbè, no, non è niente. Vuol dire che non c'è possibilità di rimetterla l'antenna, se no possibilità nel senso di posto, va. Però va bene così, dai, non è niente. Che è qua? Oggi ci si è abbassato. Ah, poco fa mi sembra che si è fatto, allora è un'altra persona quella, che ho sentito basso in basso. Io magari. Forse sì, sì. Ciao Fra, saluto a tutti comunque. Ciao Antonio. Dimmi. Cazzo, mi ha creato il mio Toxel. Cioè Toxel. Non me lo ricordo adesso. Che apparecchio c'hai? Il cofano Toxel è il DM1000, è quello. Bisogna creare il mio. Il microfono. E io neanche usavo l'altro di Toxel, frega, addirittura. Capito? Ti posso mandare al limite la foto su WhatsApp dei contatti fai prima. Anzi, non c'è neanche bisogno, tanto ci sono i numeri che sono nello spinotto. E avete scritto nei numeri, i colori e sei a posto. Poi devo smontarlo, adesso c'è buio qua. Però senti, domani, dove andate, tanto sono a casa, non sto facendo niente, devo collegarmi questo barattino qua dentro una casa di stereo, cioè una casa di stereo, un basamento di permetterci lo stereo dentro, hai capito? Mi faccio pratica di barattino faccio le basi, quindi devo collegare il microfono anch'io. Ah, per Proxel così ti dico il colore e il numero, dove mettere i colori, così sei più tranquillo e non sbagli. Antonello. E di niente, non c'è problema. Antonello. Ehi, dimmi. Vieni alla radio per cortesia. Signore, 9:20, radio 5. Ma grazie, va. Meglio delle altre volte sto arrivando. Sì, quello sì. Ciao, va bene. Già sei più forte a voi, ci mancherebbe. Io sono amico della potenza, se no rischio di incendiare questa realtà. No, adesso sono malezza, guarda, ecco. Non lo sopporta, però no. Adesso scendo di porta. Ok. Adesso sono 5 watt, so. Gianni, ripetete la tua. Ti pari due. Oh, con Gianni il G. C'è sparito, boh. Ti piglia tu il G, allora, va. Ciao Antonio. Ehi, saluto anche a te, bella scucito. No, sono sparito, che non riuscivo a prendere il microfono, ho sbagliato, ho preso quello di un altro apparecchio. Ah, succede anche a me a volte, guarda. Con te barattini che ci ho dati 4 per esattezza, a volte sbaglio il microfono. Perché non sono più abituato. Cappa. Tutto a fischi. Tutto a fischi sono. Sì. E invece l'altro. Sono Alfano, e adesso a fischi sono. Ah, tu la sorreggi. Ma non senti già? Eia, eia. Fa... Aspetta un attimo. E allora? Ehi, Fra. Sono tutti in sciopero. Sì, sono in sciopero. Tutti quanti. Non la regala d'entrata. Sì, a volte non c'è guglia, non c'è si entra. Lo so che così, a volte anche a me mi piace ascoltare, non entrare, però ogni tanto faccio una battutina, quando non sto bene è così. Se uno non sta bene è così. Certo, tu pensa già, io quando avevo altro 1160 a fianco a questo, che lo usavo nel PMR, a volte andavo a rispondere qua, schiacciavo con la schiacciavo, poi da vedere i dai, i danni su. E allora, poi dovevo vedere l'ho. Sì, succede, fra. C'è stato a me poco fa. Adesso ho attaccato quello, il mix microfono quello col cavo, non quello da tavolo, ma l'altro, così almeno non mi sbaglio. Conviene sempre tenerli un po' distanti. Io ce l'ho, aspetti, l'automobile che ci sia stata, però l'ho lontanato da me, da questo, per non sbagliare. A me... cerca se il mitra, stavo provando, ma quel mitra va bene con l'MV5, va bene. Chiuso tutti i tuoni, lasciato normale, va anche una bomba. Sì. Ma io ce l'ho l'MV5, l'ho comprato nuovo, l'ho usato solo una volta, poi è sempre lì appoggiato. Lo so, anche io ce l'avevo, l'ho dato perché in stazione non ci stava come altezza, capito? C'era già tutto occupato, l'altezza non ci stava, e allora l'ho dato, l'ho venduto nuovo, ancora di scatola. Ma poi io l'avevo dato l'altro, me ne sono sentito poi, e me lo sono ripreso nuovo. Questo almeno è nuovo, so che è nuovo e tutto va bene. Sai cosa c'è? Che poi fanno a scomparire, non le fanno più e non li trovi più. Hai capito, Fra? Sì, un attimo, ma come sta? Ma è giuro? Sì, che ci siamo. Ci siamo io, Franco, Eugenio, Natalino. Ciao Natalino, ciao Franco. Franco, lo sento. Franco, mi senti? Franco, lo senti a Luca? Sì, un attimo che sono al telefono. Aia. E Eugenio, riprendi. Luca, lo senti a Nicola, ti sta chiamando? No, no, già. Non ho visto quanti morti già. Tanto anche la fila non si può andare in Italia. Uia. Che sei malendo di pesci, andate che c'è la che di grama c'è di tutto, chissà cosa. Ma tu non ce lo fa niente già. No. Ma io purtroppo sono costretto. Chi va con la spesa? Da me ci va Marco. Mio figlio va. Oppure vanno gli amici miei, già. No, io non sto proprio uscendo. Io dovrei uscire per andare in fretta a fare la visita, ma non so se l'ospedale è aperto. Boh, se me la fanno, ma non lo so. Ah, mi sa di no, avanti. Luca, sta richiamando? Dico, mi senti, sì? Sì, infatti, ti ha chiesto per 100. Ah, ok, dai. Anche tu arrivi benissimo, ma gli altri non li sai. Gianni, vabbè, a fondo scala, quasi. Però Eugenio e l'altro, lo sento, non c'ho l'antenna, Fra. Sto usando un radiale di manto, ho capito. A me, Ah, ok, dai. Chi è l'altro, Natalino? Io sono, a me senti, Luca Cuzioni. Guarda se sto arrivando meglio degli altri giorni. Sei quanto è Franco, segnale 7. Ma no, ma prima come ti arrivavo che avevo un problema all'alimentazione, stavo facendo sotto alimentato. Prima di 3-5. Quindi ha migliorato, dice Gianni, anche la radio ha migliorato. No, vai bene, a voglia. Vai bene, dai, non c'è problema. Ragara. Vai già. E la radio è più forte, prima ti sentivo più basso. Oia. Io a me sta di sempre mi devi dare sul microfono quando sale in campagna, Natali, che me lo attacco al Midler. Già, e che ce l'ho in campagna, e i capi attende in campagna. Se non so chi scende la casa. Ah, e poi mi fa sempre questa storia. È vero, non si scende più. lo so. Purtroppo ogni tanto me le dimentico. Oia! Mi sa che quella visita mi ha detto poco fa che la disetta quella lì. Non penso che ti facciano andare. Ma io devo fare le lastre e poi andare al quinto piano e fare la visita ortopedica. Per forza devo fare. E dopo l'operazione ti controllano, dopo un mese. No, scusa Fra, no. Allora chiamo a vedere qua, la visita a Bill Mac, che è molto più importante della visita tua. Sento quella. Erano il mio amante di chiamare al 3 aprile, cioè verso il 3 aprile, 5 aprile. Vabbè, io la devo fare il 30 e non adesso. Ma è chiuso tu, non te ne parlo. Dopo verso il 3 e 5 aprile. Perché mamma già tutto per telefono, avevo già fatto tutto, la visita cardiologica, quella oculistica, in più il prelievo del sangue, ho telefonato, gli ho dato tutti i dati, mi ha detto bravo, continui così. E basta, ci vediamo ad aprile chiami e prendiamo l'appuntamento, così le faccio anche il piano terapeutico. Ma mi sa che salta, se non passa questa storia non visitano nessuno, proprio per evitare contagi e ballerate. Ma io sono Gurubimbo che non mi muovo, se ancora chissà cosa. Sarebbe da semi uscire lì, magari da qui a sapere più da distaccato, tu telefona prima e ti diranno che è chiuso, ti daranno un altro appuntamento per fare queste visite qua, penso. Vediamo come si comporta la storia. Io mi auguro che sia tutto passato quando devo fare la visita. Io pure, se per quello anch'io. Ma non manco molti. Buone cose. Ecco, in questo mese. Ti hanno muore in bocca di niente. Con i militari. Con i camion militari li stanno trasportando le pare a un altro paese per poterli bruciare. Dimmi tu. Lo so, stanno facendo tipo fosse i comuni, però li stanno, cremando. Si stanno cremando anche perché il fuoco distrugge tutto, capito? Se c'è il virus all'interno c'è sempre il problema che possa espellere fuori, invece col fuoco bruciamo tutto. Allora, cremarsi vogliono così. Così non si corrono il rischio. E così stanno facendo. Voi pareti questa cosa, come mi sembra che c'è nell'aria? Ma chi lo sa cosa hanno fatto? Se non l'avevano lampati dall'aereo, il virus appunto. Ma c'è qualche cosa che non quadra. Troppa gente, troppe nazioni, troppa gente. La Francia ci dirigeva, adesso anche la Francia è mitigata. Tutti, è tutto il mondo così, arrivi in America, non gli arrivo. Adesso si stanno attrezzando adesso gli americani, perché lì è tutto privato, dici un tampone costava $3,000, dimmi tu. E infatti chi c'è in America, gli italiani vogliono tornare da noi, perché loro non pagano. Invece là devono pagare tutto, la sanità lì è indietro, ha detto che sono avanti in tutto, ma la sanità proprio è indietro. È sempre stata così, tutto sulle assicurazioni si basa, c'è una assicurazione devi morire. Anche in Inghilterra è così, mi paghi gli asili nido, li paghi, perché c'è la figlia di un'amica mia che è là in Inghilterra. Ho detto, ma perché non te ne vieni qua, così almeno stai con lui, eccetera. Ho detto, no, rimango qua perché lì si paga tutto, sanità, asilo, insomma si paga tutto quanto. Come voglio vedere come fanno in Africa, adesso, sono arrivato anche lì. Mamma mia. In Africa già ci sono i dottori, ci sono quelli missionari, i dottori in missione. Ma è un casino però, che già i valumorelli così, i valumorelli, ma da un po' con questa camaratura, con questa virus, cosa succede? Ma su certa gente stanno funzionando certi tipi di medicinali, capito? Tipo quello per l'artrite, che è praticamente un antinfiammatorio, su certe persone ha funzionato, capito? Perché non è altro che infiammazione ai polmoni, capito? Solo che sono cose grosse che non ti fa respirare, come se hai i polmoni infiammati. Infatti quelli malati di ai polmoni, così, quelli lì sono i primi che agganciano. Stanno facendo la prova come le angurie. Hanno provato diversi medicinali, diversi antibiotici e via dicendo. Hanno detto di non prendere antibiotici a conto nostro, che è sbagliato. Loro devono appurare quale antibiotico può andare meglio. Tanto la gente muore, specialmente quelli che sono colpiti i polmoni devono andare in terapia intensiva. Sì, ma poi non ci sono posti natali, sono allo stremo, i dottori, gli infermieri. Ma sa, se li tutti gli infermieri della cardiologia, sono tutti pizzicati da quell'uomo che è morto, li ha contagiati tutti, e sono tutti in quarantena. Se viene fatta cacchi duro, non so come, cosa fanno. È quello che io ti stavo dicendo. Ma ti vuoi lasciare un po' di che è morto? Cosa, Luca? Ho detto che ho pulito la stufa, l'ho messa in moto. Ah, noi stavamo parlando di cardiologia e tu mi dici con la stufa, cazzo. Non avevo presente, dai, la stufa. Ma cambiare la stufa dove hai lui? È il carburatore, no, la, il figlio Calzurio. Come ce l'hai, a cherosene a casa mia? No, a pelle, figlia, a casa di Maria a pelle, mamma sta elettrico. Ah, ma tu sai se sei a casa tua o da Marina? Sì. A casa da Marina. Ah, e va che arrivi forte anche così, boh, però non riesco a capirci un calmo. Prima ci dico questo microfono a casa, un casino, quelle stufe vogliono pulite almeno ogni settimana, a quanto ho sentito. C'è l'aspirapolvere apposta per aspirare la cenere. Insomma, hanno bisogno di molta manutenzione, dai. Certo. Adesso questa qua ogni tanto suona, poi la spegni di nuovo, la riaccende non suona più, questo è magari qualche sensore, e poi è pulita bene, non è che non si è pulita bene, vabbè là, perché guarda, anche mese fa l'ho aperta tutta quanta, adesso ho pulito le pareti, c'erano di pulire già, il tubo ho sempre un tipo di pulire, era perfetta. So che ha la macchina dei suoi anni, cioè 2 anni, 3 anni, la stufa. Stava già iniziando a rompere le scarpe. Nanni, ogni 2 giorni, massimo 3 giorni, la devi pulire. Sì, io ho scritto un cliente, mi ha detto una volta alla settimana che la pulisce. Però se fa così è ancora meglio. Che cosa, il tubo o la stufa? La stufa con l'aspirapolvere. Ogni settimana, no, ogni giorno. Se io la sollevo, altro mi suonava. Prego! Avanti, Breck. Buonasera, Lucky Fortunato qua. Coordinate circonvallazione di Sierra Sierra. Ciao Gianni, buonasera. Faccio Bianco che mi sta squillando, poi riprendo. Ciao Fortunato, ciao, ben sentito. Dai, quando vuoi riprendi. Avanti, Luca. Sì, allora, ciao Fortunato, mi ascolti. Dottori, avanti, Franco. Ciao Fortunato, io non so se mi sente lui a me adesso, perché è molto basso qua. Ciao Fortunato, Franco l'ascolto. È al cellulare, ha detto riprende dopo. Però sta rientrando. Mi accetto un attimo. E beh lui, sta in giro giù. In giro, no, lui va a casa, ragazzi, in giro, no, a casa sta gente che murelli, non ci vanno i muri alla vasta. Voglio che tu riesci da pure. No, se mi scitti con la 25 a fare la spesa, sono scesi in campagna a portare la cosa alla mamma. Purtroppo i genitori sono, il padre fa un sito, no, da tanti anni, la mamma ha avuto suoi problemi di salute, siamo entrati e usciti dalla TVA subito e siamo rientrati a casa. Io sono tutto il mese che sono uscito, dal primo. Dai, primo del mese, sono uscito pure. E se ti fermano come lo giustifichi? Anch'io? Col foglio già, foglio giustifico, col foglio. Poi lui rientrando all'altezza della Ushan, poco a poco qui sotto quel ponticello lì, fa stata una pattuglia, un appunto della polizia, dove c'era lampeggiante sopra. Infatti c'era la mascherina e i guanti. E stavo camminando lì piano piano in macchina. Ma tu cosa dici, che ci stai andando a fare la spesa? Certo, già è per forza. Dice che bisogna andare una alla volta a fare la spesa, buh, se ho sentito bene. Oppure deve essere uno che guida e l'altro dietro. Ma lì ne fa che assoluta dietro, io stavo guidando già. Ah, Gastone fa. Ma mo giù io, non ti compresi. Vabbè, andare. K. E vabbè, almeno te ne esci un po' più, ti svaghi in qualche maniera, anche se vai a fare la spesa. Io sono più di un mese a casa. vabbè, già, io devo uscire, ascolta. Già c'è anche uno là che c'è a casa, ma l'altro giorno sono andato a ritirargli la terapia a mamma. Siccome adesso non fa più, quando si unire ne fa una, gli ho fatto meno cose, tipo prima gli avevo tre pacchi di aghi, altro che danno un pacco solo, da 100, ma mi fa tutto il mese a Puglia, e mi hanno fatto a buro, in più di un mese di qua, di più. E gli aghi, quelli per fuggirsi il dito e quelli per misurare la glicemia. Adesso aspettiamo, gli detto mamma di misurarsi queste glicemie tre volte al giorno, invece di farlo due, perché vuole sapere un po' il, come si dice, il diabetologo come sta andando. E infatti è giusto, è stata una regolata. Quando gli notte mi sa, gli ho controllato la macchinetta, c'era una da 277. Come gli ha tolto l'insulina senza guardare come stava andando, mi pare strano. Io l'insulina ne faccio tre, però va bene così, perché ce l'ho sempre regolare adesso. No, stava andando benissimo, ma ho visto che la glicemia non batte, anche batte tipo 89, 90, così 92, ha visto che allora gli ha dato la pastiglietta per pranzo e cena, questa pastiglietta di pranzo e cena, poi la notte la Lantus per dormire, quella lì l'ha lasciata, però gliel'ha portata a 20, perché quando sono andati a fare la visita, quando è, un paio di mesi fa, gli ha visto le glicemie alte, gliel'ha fatta la salire a 20, però gli ha detto che se queste glicemie continuano così, gli fa fare l'insulina. Perché tu devi guardare quella della mattina se è alta o bassa, se quella della mattina è alta vuol dire che è troppo poca quella che fa la notte l'insulina. E quanto costa la mattina, 200 in più? Io la mattina sai quanto ce l'ho, 125, 110. E così va bene, ma se fai l'insulina è problema della pastiglietta, se vuoi la pastiglietta non ce la fa più, cioè è troppo bassa, perché prima andava bene già, bene, benissimo, c'era la meglio delle mie, ti fidi. E poi è esagerato, perché lì cosa fa? Lì mangia roba che mangiamo noi, ma non ne abusa troppo, tipo la banana, la mangia un po' di zuccheri. Poi non so cosa mangia, se mangia dolci, ogni tanto ci mangia qualcosa di dolce, più di uno. Se volte qualche gelato che si mangia, ma non ci sono io, purtroppo non ci sono lì. Poi ho un fratello ignorante che va a mettere roba dolce in frigo. Cioè, gli ho detto mille volte di non mettere niente, tanto dice no, non è tocco io, ma cosa non è tocchi, la tocchi. E già io ho una persona che sopporta, poi scoppio, me, già sono scoppiato una volta, una volta scoppio ancora di più. O due, è come mettere a un tucci con la droga davanti, è la stessa cosa, casi non la tocca. È normale che la tocca, la tentazione c'è sempre, anzi quando uno non può farlo ce l'ha di più tentazione. Scusate se abbiamo monopolizzato, avanti e attacco. Scusa Raffaele, io faccio quello qui, devo scendere giù, stiamo chiamando. Ci sentiamo, dai, a lui se ci siete dopo rientro. Avanti Natalia. Sì, scusate, senti l'allarme. Ciao Fra, mi prossima. Prendi già. Dai, vado un attimo in bagno e poi riprendo. L'allarme se sta suonando perché qualcosa non sta andando bene, Luca. Io già ci sono sempre. Cosa, Luca? ha piazzato l'antenna a 50 centimetri dalla mia, e se non mi la sposta l'antenna, se no si mobilita, se no non vedi nulla, perché a me me l'hanno detto, prima che interveniamo noi, digli a quelli di chiamarci un tecnico e di aggiustarsi l'antenna, perché se interveniamo noi sono affari loro. Però è strano, tu. Io da quando sono passato in digitale terrestre, ma in, diciamo in digitale, là, sono più disturbato. Io avevo disturbato una famiglia solo, su 20 che siamo. A casa ogni tanto, dai uno, ma ogni tanto, non serve. Non so, ma quando che ho perso, mi chiedo a trasmettere, là un po' faccio la verdine. Sono più disturbato io. Era tutti muta che aveva una fatica a Cavannira e a Piazza Allassa che tu manco te ne immaginesti. Mi già tiro di sì Claudio, cosa avevo a fare una cosa del genere? Era buffonente sì. Poi chi tu tiro secondo piano non mi faccio piazzare, un macello là. Non si può. Ma la colpa è di loro che hanno le antenne marce, sono di quelle antenne vecchie che non sono neanche del digitale terrestre. Si devono cambiare l'antenna. Io sono in regola qua, mi contento di sicuro omologato, però ve la posso pagare. Prima l'hanno messa a me la multa, adesso la mettono a loro. Perché io sono in regola qua. Perché ho l'apparecchio omologato, marcato CE e quindi mi accontento di uscire con questo, però lo sto facendo apposta. Cavolo. Ma io guarda, avrei sperato del mondo a lì, però alla fine è così, tu trasmetti e poi ti buca dolci pure agli enti, perché è così, l'esperienza vissuta. Allora, quell'antenna non c'ha niente, non c'ha assolutamente niente, continuo a ribadire quello che ho detto stamattina a Gianni, quell'antenna è perfetta. Il problema è che bisogna adesso salire sul tetto per poter aggiungere 2 metri di tubo e tirarla su, ok? Però per scenderne quell'antenna e sostituirla, ma voi non avete idea di cosa abbiamo dovuto fare per poter montare quell'antenna. Non è un'antenna così che prendi e togli. C'è un lavoro da paura per togliere quell'antenna, Luca. L'unica cosa che si può fare, se si riesce a trovare un accordo e salire sul tetto, io in mezz'ora tolgo i cavallotti, sfilo l'antenna, innesto l'altro tubo e la tiro su e poi ti faccio vedere come esce da lì, o se disturba qualcuno. C'è il radiale attaccato all'antenna della televisione. Hai capito dov'è il problema? No, ma lì tu non sei fatto più intendere, e tu che dici il babbo anticamente. Ah, ma se fatto intendere che prima poi sull'antenna a fianco della mia, compreso, attaccata alla mia me la fuccia, ma se non si chiama l'antenna un cazzo ne vedi televisione, tu. E da poi ti chiamo i gaffi, a chi secondo come ti mi rispondi, ah, la vicina ha mandato un messaggio a mia moglie e ha offeso a me e a lì. Secondo come si fa a vedere un capo che di culo mi ripete un capo, non sono d'altro. Ed io fa a vedere, tanto mi pare e mi piace, a chi so che è ora. Io all'antenna mia non li posso rubare, a mia controllando questi. Sono stato pure un analizzatore di spettro, neanche con quello che non è risultato omologato, disturbavo. Figurati se disturbo con questo. Se loro cazzo mi rompono le palle come cucane pure, sono lo so Natali, lo so che non è un problema tuo, lo so, se tu non disturbi il tuo televisore, non capisco perché devi disturbare pure gli altri, sono loro che devono mettere le antenne a posto, già l'ho visto cosa c'è di ingrigolamento di video in Kimi. Capito Luca? Non è così facile come pensate riscendere quell'antenna. C'è un lavoro da paura, intanto ci vogliono 3-4 persone, capite? Non tanto per scenderla, perché a scenderla si solleva dal piantone che ho messo io attaccato al muro e si fa scendere. Il problema è risalirla, che ci vuole la corda, bisogna tirare da su dall'ultimo piano, lascia perdere. Non è un lavoretto da niente, chi se lo avremmo fatto. se io lì riesco a raggiungere 2 metri di tubo, due metri e mezzo di tubo, ti faccio vedere che lui lì è perfetto, non disturba nessuno, Luca. Sì, Ocla, guarda come ti sto arrivando, se è diversa la situazione. La prima, che stavo uscendo, sotto alimentato stavo uscendo, e c'avevo l'alimentatore incasinato. Scusate, ma ti do il telefono. La cena, quelli mi muovono i piccetti, prova. Fai da un po', mi interessa vedere se esco più forte. Anche la radio dice ha cambiato Gianni. Stavo uscendo con 9 volte. Tanto sei 9,15 abbondante, Natali. Ero già voi da Sant'Anna a Guisce Bassa. 9+15 abbondante, la radio 5 è perfetta. Ok, vuol dire andare di vera. Perché c'era l'alimentatore che si spostava e usciva a 9 volte. Ma io sono già attaccato a Darito, ho giunto il serratore in modo che non si possa impuzzare e va a stare stabile. L'ho tutto pulito dentro, si vede tutto chi si vede dentro da sfruttare. Lo so, per le cattore ogni tanto bisogna pulirli, se no è un casino. Natali, se si riesce lì a prendere a tempo buono, ci possiamo provare, ma è un grande lavoro che dobbiamo fare. Provare da sotto, sfilarla, abbassarla e innestare altri 2 metri di tubo da sotto e risollevarla. Quello possiamo farlo. Vediamo un pochino cosa si può fare, però se loro ti fanno salire in mezz'ora il lavoro è fatto, capito? Sì, provo a vedere. Io il tubo ce l'ho, no, non ci vuole niente, registrato il break. Lo sai, tubi già ne ho, come quello che ti ho dato, mettiamo un altro leggermente più fine che entra in quello lì e si innesta, però bisogna salire su per fare un lavoro fatto bene, capito? Da giù viene troppo male. Avanti break. Ciao Giuseppe, buonasera, ben sentito. Non so manco ci sia perché avevo il volume basso sollevato. Ho sentito Luca parlare. Ti passo Natalino, vai Natali per Giuseppe. Ciao Giuseppe. Cosa? Adesso come ti arrivo a te Giuseppe? Perché tu mi avresti filmato degli altri, dovresti notare la differenza. Se sto uscendo più forte, dai. Prima quando ti arrivavo, 7-8. E ok, perché avevo un problema all'alimentazione, da, stavo uscendo sotto alimentato. Ok, da, andà bene, riprendi qua. No, qua sei 9,15 adesso, prima di 9, poco più di 9. Adesso sei 9+15, radio 5. Riprendi tu Gianni, dai, che mi allontano un attimo. Intanto saluto a Giuseppe che è nuovo entrato. Ciao Giuseppe, ben sentito. E niente, dai, sta arrivando bene, perlomeno qua a casa arriva bene Natalino. Lo sento bene. 9,25 a casa. È buono il segnale, dai. Ma anche Giuseppe arriva bene. Se ci fai attaccato a Giuseppe, io vedo che arrivi bene. Lo so, io sto dicendo che a me mi arriva bene, voi. Non lo so dalle altre parti, ma penso che lo ascoltate anche voi. Ma Santiago 8, a te è chiaro che arriva bene. Anche Natalina è più vicino a te che a me, però 9,15 qua va bene Natalina. Ci fai attaccato, io vedo che intendi bene. Va bene, dai, riprendi Giuseppe, sentiamo dopo. Ci vuole dietro di RF, quindi è chiaro che te le abbassa. Mette una posizione dove siano più riflesse che dirette. Sì, ma non sono affidabili, sai perché? Perché avendo l'antenna interna ti fa rientro sullo strumento, capito? Quindi non è molto affidabile, eh? Non ti preoccupare, già non è stazionale, sennò già non uscivi così bene. No, c'è l'antennino quello nel rosmetro. No, toglio. Quello serve per l'impedenza, toglio. Quello misuratore di campo. L'impedenza o campo. È un adattatore di impedenza per lo strumento. Da 50 a 75. Sì, perché con quell'antennino lì ti cambia l'impedenza, capito? Non lo usare internamente. Quello si può usare esternamente quando fai delle prove esterne. c'è l'antenna interna, quindi non lo mettere giù, non è stazionare, perché se no non saresti uscito così. E vabbè, se ti ricordi quando abbiamo fatto la cielo davanti, ti mando la foto delle ma sai che mi sembrava prima, cioè nel 2012 il campo scuola abbiamo fatto, nel 2012. Sì, ce l'ho cominciato, assieme agli altri cornici che ho qua in sala radio, intanto me lo guardo, nel 2012, caspita, siamo nel 2020, 8 anni fa, è stata una bella manifestazione, è stata una bellissima manifestazione. Sì, però al finale non sono venuto perché ero di turno. Capito, stavo lavorando, se ti ricordi, infatti me l'hai ritirata tu la pergamena. Una bella cosa, ciao Eugi. Buonasera, ben ascoltato. No, ce l'ho, la custodisco bene, una bella cosa. Un bellissimo ricordo, anche perché è proprio dedicato dalla vostra associazione a tutto, proprio a Claudio Matti e Severo di FB. Va bene, avanti Eugenio, buonasera. Canto già vai, ora chi è quello del comando? Gianni, riprendi. Ehi, Alonso, che ci sia rimasto? Battalino, mi sembra. Battalino, avanti. Io già sono sempre qui che vi ascolto, non c'è problema. Già sono sempre in occhio. Battalino, ma quante punte è quel microfono di quella radio? Questo te lo dico. A 5 punte, mi sembra. Ma sì, quando l'ho preso fino a te buono l'MB più 4, ne togli il down e up, usi 4 fili, gli usi e va, e ti buono il microfono a tavolo. Intanto, non cambia niente. Aspetta, oggi, ehi, annaggia microfoni 8 di microfono a tavolo, era tempo, quindi non ti preoccupare. Quanta vicina è lì, quante punte? 8 punte, c'è anche uno centrale, 8 punte. Compreso quello centrale come il K, come il Kenwood. Dobbiamo fare anche esperimento qui. Un microfono di Kenwood lo dovrei avere, uno di quelli palmati. Ho detto che lo tipo dall'antenna, anche di tutto, vabbè, poi si hanno. Magari c'è sicuramente avranno la. Come si dice? Miscelatore magari un po' umidicio, no? Quel miscelatore, ma anche l'antenna basta che abbia poco di umidità dentro, diciamo si fa rientro. Il nostro è una scoperchiato. Ti credo, è normale che fa rientro, poi le spuglie che manda il magazzino. Poi vabbè, la telecamera è un bel basta anche. È un bel basta. No, io ripeto, da quando siamo partiti digitale terrestre, poi abbiamo messo la tela là, cara, nuova. Vai via da giù. No, non ho avuto più problemi. Anzi, ogni tanto a casa, però vabbè, la tela era vecchionda. Comunque sono la tela che l'ho messa nuova e non ho problemi. Però me la casa non ne ho, poi se c'è qualche problema da qualche parte lì, qualcuno che ha l'antenna vecchia. No, Lu, guarda, ti posso garantire che non è l'antenna quella che è Natalino, perché ce l'ha anche Marco attaccata nello stesso palo con l'antenna TV. È un problema che basta, c'è i radiali che stanno toccando praticamente per terra nel cornicione e sono attaccati all'antenna TV. Ma il problema è che Natalino anche da sua non disturba niente, quindi con l'antenna lì con un altro 2 metri di palo esce un capolavoro. Arriva 9 più 15 qua a me. Arriva Gianni qua è 9.18, ci appicchia 9.20 e Natalino stabile a 9.15, per dire, no? Cioè, un segnale così, quindi non è così male, ma molto molto bene, assolutamente. È che lì bisogna sollevarla con l'antenna, non è un problema di antenna, c'è tutto nuovo, antenna, cavo, PL, tutto nuovo. Sono loro che si devono mettere a posto. Se lì a me mi fanno salire, aggiungere 2 metri di palo, io ti faccio vedere come esce la rinata lì. Certo, se la liberi di più l'antenna risuona anche meglio perché è più alta, perché minimo vuole 3 metri alta dal tetto, invece lì è più bassa. E lì c'è 3 metri più bassa, la capigliura, capito? Sì, beh, 1,5 metri, 2 metri, almeno per avere un piano di massa regolare, quella non è un piano di massa, è chiaro che i rientri ce li hai di RF vanno tutti a influire su quella antenna che c'è lì, su tutti i gaga parte di antenne che vi sono chi si sono cambiati, non so antenne, antenne vecchie, per carità. Va bene, cosa sta dicendo Eugenio? Guarda, io di microfoni ne ho uno per ogni HF, quindi ho l'MC50, MC60, MC60, MC60, MC60, SM20, SM20, MC80. Poi dentro l'armadio ce ne sono altre due, quindi quando poi ti sceglierai la radio che ti piace, ti darò il microfono adeguato alla tua radio. Cambio. Uno era lì, la fotografia c'è qrz.com, stavo parlando in HF, ma è la Madonna, ho visto la tua foto, perché quando noi parliamo aveva ancora, no? Si digita il nominativo su qrz per vedere se sei un pirata o meno, e le è apparso nome, cognome, indirizzo, la foto della sala radio. Cazzo, mi ha detto, ma c'hai la collezione dei microfoni? No, io ho un microfono per ogni radio, che è diverso. Ecco, e gli è stato il break. No, io il microfono da palmo ci ho tutti dentro il cassetto, non è un carasciumbiero, io uso microfoni di tavola, non mi piace tenere una cosa in mano. In mano le piace a tenere a Massimiliano. Avanti, buonasera. Buonasera, non ho fatto ascolto, ho sentito a te e Eugenio, poi non so chi c'è ancora. Ci sono io, Natalino, Eugenio, Giuseppe Tornado, Gianni Doppio Rum e Luca Manicomio. Vedi tu? Vedi tu. Allora saluto cordialmente a tutti. Faccio riprendere a Natalino. Va. Avanti Natalino. Non sei uscito in radio. Io. Sì, Massimiliano ti ha rilanciato a te. Ciao Massimiliano, mi senti adesso? Forse non sono uscito in radio poco fa, perché questo tardami, devi stare un secondo con il tasto premuto ed esce. Ok, no, sì, ciao Natali, buonasera per l'ascoltato, va. Avanti. Ciao Massimiliano, mi sentito cordialità anche a te, dai. E allora, oggi cosa ci racconti? Qualcosa di bello? Sì, qualcosa di bello, come tutti i giorni ho già. Casa lavoro, lavoro a casa. Perché al televisore non si può accendere questo cacchio di televisore, devo vedere la baraluia ogni volta. Invece di vedere miglioramenti si vedono sempre peggioramenti, c'è la grande grammaccia di luce, sa cosa. Esatto, ho rotto in curva. Lo so già, purtroppo anche se non accendi la televisore, il televisore ascolti anche la radio e dice le solite cose, e purtroppo adesso è questa la cosa più importante, che si parla solo e esclusivamente di questo, ma io ne ho già le palle in terra di questa cosa. E non sono più, io sono un mese qui, tra ospedale e casa sono un mese segregato, ho fatto un mese al 18, esattamente. È un casino, e vabbè, meglio stare a casa già. È meglio stare a casa, avanti, roccia in cu. Cavolo monia, così è, a casa sì. Insomma non passa sta cosa, veramente. Ci andiamo tutti in galera, non si può più. Io mi sto ammalando, capito? Sto perdendo quattrini e mi sto ammalando anche. Mi sono già rotto, quindi non sono neanche, guarda. Perché per me parlare di questa cosa è una provocazione fisica e morale, veramente. Non avevo molto più, capisci? Avanti, chi c'era poi? Luca, vuoi riprendere? Riprendi tu Giuseppe, vai. No, quello che mi rompe, sai che cos'è Giuseppe? Mi rompe che io ho la famiglia che è già quasi 3 settimane a casa e io sto lavorando, capito? Quello mi scoccia molto, perché questa cosa lo potrei tranquillamente portare io dentro casa e questo mi gira molto molto le palle. E tu piglia la bufonata. Ti rispondo io Massimiliano, te l'ho già detto, le normative di legge decretato, il decreto legge, e qua c'è Giuseppe che penso sia abbastanza informato per il servizio che fa. Il decreto legge parla che tu ti puoi mettere in malattia e la malattia non ti viene conteggiata come malattia, ma bensì come quarantena. Quindi sei, lo puoi fare tranquillamente, non succede niente, non ti possono licenziare, non ti possono fare niente. Tu hai il diritto, è una bambina piccola e devi stare a casa. Te l'ho già detto l'altro giorno e tu hai detto adesso vedo. Al tuo titolare dici, signore bello, io da domani sono in malattia, anzi, siccome il decreto legge parla in italiano, non in inglese, sono in malattia ma sono in quarantena, quando vieni il tuo casino ci rivediamo, ok? Non ti può licenziare, c'è l'arresto. Non abbiamo bloccato il licenziamento, non possiamo licenziare nessuno. Io ti sto dicendo che così il decreto legge parla di malattia, quantificata in quarantena con i contributi che vanno ad agevolare il datore di lavoro proprio per la mancanza di personale, ok? Quindi il tuo datore di lavoro non perde niente, non perde niente, si ferma, non rivara un raio, si deve fermare. Io stamattina ero al telefono con un collega di lavoro, nelle macchine che si viaggiava in due, che si viaggiava prima in due, adesso sta viaggiando uno solo e stanno facendo una settimana a turno, una settimana uno rimane a casa e l'altro va al lavoro, una settimana l'altro va al lavoro e l'altro rimane a casa, hai capito? No, la situazione non è così, la situazione non è così, ci siamo già informati bene, il tuo collega ti ha detto un po' di cazzate. Allora, in un doblò, a due posti, in due si può viaggiare, siete due con la mascherina. In un camioncino da sette posti puoi viaggiare in quattro, e in un camioncino da nove posti puoi viaggiare in sei. Quindi ti ha detto cazzate con lui. No, non è così. E poi il decreto per la mia azienda non c'è, perché noi facciamo movimento terra e ognuno è seduto dentro il suo mezzo, capito? Quando paghi il tuo mezzo, lo usadrome nel mezzo? Ma tu stai scherzando, tu sei a contatto con i tuoi colleghi, tu cosa ne sai? Quando scendi dallo scavatore, sei in quell'area dove tu stai lavorando, c'è il virus, sei uno che si è avvicinato anche a una distanza, se tu tocchi una cosa che è stata toccata da uno infettato, cosa ne sai Massimiliano? Cosa si risente? E poi non è come stai dicendo tu, l'azienda dove ero io, che sai qual è, la multinazionale, ha deciso di far camminare il personale a uno, i doblò sono tutti attaccati, i gardoblò, sono fiorini, sono, sono doblò, sono vari giri tutti attaccati, con il bracciolo, ti tocchi uno con l'altro, voglio si risende. E l'azienda ha deciso così, ha preso iniziativa l'azienda, ha fatto una riunione e ha detto, facciamo in questa maniera per tutelarci, mascherina o non mascherina, stanno lavorando. Impianto per impianto, uno alla volta, a settimana, turno a turno. Quindi è l'azienda Doria che mi pare valorizza in busciacca, ma non funziona così, non funziona, perché se tu consulti un sindacalista, un sindacato serio, ti dice che è così come ti sto dicendo io, ma futtidini, ce l'ho fatto rappresentante sindacale, le leggi le conosco, questo decreto parla molto ma molto chiaro. Non influisce né nelle aziende e né nel personale, nel modo più assoluto. Giuseppe, prendi. Sì, ma se prendo io poi faccio girare. Sì, ho capito. Però tu ne convieni che se io viaggio con un collega mio, con quello che ci avevo, che è 2 metri per 1,50, che quando viaggiava mi rubiorino, erano tutti e due quasi abbracciati, mi toccava ogni volta capo, mettendo le marce. Non va bene, quella non è distanza di sicurezza, uno. Poi voglio capire, Massimiliano, quando staccate per il pranzo, cosa mangi? Tu a Levante, quella a Ponente, quella Grecale, quella a Maestrale, non siete tutti assieme? No, negativo, ognuno mangia dentro il suo mezzo. Ah, dentro il suo mezzo, vabbè, sarà. Però io ti ripeto, quell'ultimo coso che hanno fatto vedere in TV, proprio in Sardegna, un'azienda di Cagliari di Movimento Terra, ha fermato il cantiere praticamente, e una cava, ha fermato la cava perché dice appunto che c'era il pericolo di contagio tra uno e l'altro, anche con quelli che arrivavano a scaricare, firmare i buoni, fare, questo l'ha detto Vigliolina, poi io non lo so come siete organizzati voi, però io ti ripeto, per la tua situazione, siccome tu hai una bambina piccola, io ti sto dicendo che hai diritto di poter stare a casa, al 100%, non penso che ci sia nessun problema, questo è quello che dice la legge, poi se il tuo titolare fatti suoi, allora un altro discorso. Io so che si può fare per tutte le aziende, che siano edili, che siano metalmeccaniche, che siano chimiche, non c'è nessuna restrizione per nessuno. Vai Gianni. Ma per quanto riguarda chi viaggia in macchina, per viaggiare, vabbè, tu il caso vostro è Fiorino, no, va bene, ma ci sono le macchine normali, possono viaggiare uno davanti, quello che guida, e uno dietro, in modo che ci sia la distanza, capito? Possono viaggiare anche in due. Allora Giuseppe, conviene, come dico io, siccome la mia azienda, dove lavoravo io prima, la mia ex azienda, ha deciso così proprio per tutelare il personale, non è che hanno detto cazzate Massimiliano, è così, c'è troppo avvicinata in una macchina a due posti, soprattutto il Fiorino, o prendi le panda van, si è attaccato, non riesci manco a girarti, a voi che cazzo, ma me ovunque il suo gatto di braccio, proprio si è attaccato, non c'è posto, non è come un furgone, come un camioncino che c'hai tu, capito? Lo conosco perché ce l'abbiamo anche noi un camioncino, ce l'avevamo anche noi dove lavoravo, insomma, quando lavoravo un furgoncino così con la gruetta, e c'è più posto, i sedili sono più, perché davanti c'è quello della guida, poi l'altro che due posti, ok, quindi ti sposti verso il finestrino, puoi viaggiare in due, sei distante, ma tu mangi abbia un Fiorino, sei meglio che nella macchina, questo ti sto dicendo. Comunque, io l'ho preso in questa maniera, siccome è un momento molto difficile, a me nel lavoro me ne sbatte altamente, capito? Io mi sarei stato a casa e sei tutelato dal decreto, sei tutelato, non che deve decidere lui se continuare a lavorare o meno. Tu devi essere tutelato perché sei sempre fuori, nonostante stai nel tuo mezzo, per carità, massima attenzione, tutto, non c'entra niente. Però intanto stai andando a lavorare e poi rientri a casa, capito? E non va bene, per me non va bene, poi, ti ripeto, vedi tu quello che devi fare Massimiliano. Dai, io vi saluto, mi allontano, se ci siete riprendo dopo, il microfono per Natalino. Ciao Fra, e anch'io me ne vado adesso che è arrivata l'ora di far designare. Salutoni a tutti, QRT per me, vi ascolto comunque. Ciao Claudio, c'è Natalino, dai, ci sentiamo dopo. Avanti Eugenio. Eugenio, ma secondo te noi siamo 120 persone, no? Secondo te non ci siamo già informati se si può fermare o non si può fermare? Lui personalmente non c'ha nessun decreto che gli hanno mandato di fermare l'azienda, perché lui ha già detto che tranquillamente se lui c'ha un decreto lui si ferma. Allora tu prendi anche il ponte Morandi, no? Di Genova, mica si è fermato, stanno lavorando, capito? Addirittura anche l'ANAS non vuole che ci fermiamo, capito? Devo aprire un pezzo di strada, la Sant'Eriuso, ho capito, l'ANAS, che l'ANAS è della regione, non è che... Noi ci siamo formati dai sindacati, lui se vuole non si ferma, capito? Perché lui non c'ha nessun decreto, capito? Ma questo, sì, questo l'ho sentito anche alla radio, ma è questo è 100 euro in più, a me non mi interessa la 100 euro perché non mi fanno né ricco né povero, ma c'è una voce, e c'è una voce che c'è scritto proprio che ti deve dare questa 100 euro in più o che cosa? Anche quello c'è Massimiliano, anche quello. Io dico, c'è proprio una voce in busta paga. Cazzo, ma decreto legge, ti ho detto, cazzo, tu sei abituato a guardare le radio come me. Leggiti il decreto legge cosa parla, leggilo bene però, leggi, marzo 2020, coronavirus, cosa, com'è, adesso non me lo ricordo, prova a leggere, tutti i decreti che ci sono, ha chiamato mia figlia stamattina in banca, addirittura anche la cosa li hanno sospeso. Devo fare un altro discorso però, devo fare due cose diverse. C'è un incentivo di 100 euro in più per chi rimane a casa. Sì, quello lo so, l'ho sentito anche la radio qua, quello se lo so, ma io sto chiedendo se c'è proprio una voce che ti indica queste 100 euro, mi capito? Cioè, un esempio, in busta paga c'hai la voce, per esempio, coronavirus, e a fianco c'è il totale di 100 euro, oppure è già nell'importo, ecco, quello voglio capire. Non me la ricordo la voce, che mi ha capito al volo. Quello che trova Allende, non so per caso. Sì, sì, l'ho sentito, Giorgio. L'ho sentito sia al telegiornale, sia alla radio. Cioè, io l'ascolto molto, cioè, leggo anche tutti i giorni la Nuova Sardegna e... Lo so, è così, ho sentito anch'io questo fatto qua. Noi sì, perché il nostro è un appalto regionale, capito Giuseppe? Cioè io sto lavorando sulla Sassa di Urbia. Ma secondo me ognuno fa la legge a conto suo, ok? Perché l'azienda dove ero io lavora per conto della regione e stanno facendo praticamente l'acquedotto nuovo dalla Bassangrona. Si sono fermati, poi non ha fatto regionale, anche lì ci sono le penali, cosa c'entrano le penali, Gesù? Non capisco. Sì, ma infatti la regione ha dato l'ok per il blocco. Capito? E anche lì ci sono scavatoriti, ci sono anche l'amico che conosciamo molto bene, Massimiliano, si sono fermati ad Arrachena, dove stanno facendo gli scavi per passare i tubi della colotta nuova. Perché lì c'è in atti l'associazione temporanea d'impresa e c'è, già mai capito, quella di produttore, se dove lavora il fratello di mio marito e mia nipote, non ho mai capito. Si sono fermati. Tutto l'altro giorno io ho trovato a Vittorio e ho chiesto, ma no, siamo fermi, capito? Quindi c'è chiaro qualcosa di scritto, perché c'è, come dice Giuseppe. Però è vero anche che se una persona è un po' più umana, no? E dice, signore Billy, cosa ne pensate se ci fermiamo, intanto c'è la cassa integrazione, facciamo così, facciamo colà, consultando naturalmente chi deve darle l'ok. E invece mi barichisca una pogagana di Vimassi. Claudio, non è così, ti sto dicendo, eravamo in riunione anche stasera, capito? Lui non si può fermare. Te l'ha già detto Giuseppe, non voglio approfondire la cosa qua perché no, ci sono cose troppo che non si possono dire qua. Però lui non si deve fermare, ok? Lui ha detto, appena esce il decreto, se mi danno il foglio domani, io vi chiamo la mattina, manco ci venite a lavorare. Lui il decreto di fermarsi non ha, capito? C'ha Roma Leasing e quello non slitta, no? Ho capito, ma ci sono i contributi per fare queste cose. No, io ti ho capito perfettamente, non è che sono stupido, ho capito che ci vuole l'autorizzazione. Però se non la chiede lui l'autorizzazione per il fermo, non penso che dia la regione, perché il direttore generale della ex mia azienda è venuto dalla Spagna a firmare il decreto di fermo, hai capito? Quindi sono cose che poi chiaramente noi non sappiamo, però ti ripeto, non lo so. Per me io se ero ancora al lavoro, se stavo ancora lavorando, sai pur certo che né in turno in uno, né in turno in due, né in turno in tre mi sarei messo in malattia, sino a quando non finisce tutto non ci sarei rientrato. Intanto ho diritto a 6 mesi di malattia, ma 6 mesi me ne devo fare, 6 mesi me ne faccio, pegami in docca. Pienamente d'accordo Claudio, su questo pienamente d'accordo, ma adesso ti faccio un altro esempio stupido. Ok, allora noi abbiamo finito la settimana scorsa all'aeroporto di Urbia, in 40 giorni. Allora c'era tutto questo ambaravan e tu lo sai benissimo che tutti erano bergamaschi, milanesi e roba del genere. Ok, l'aeroporto di Urbia non ha aperto, però tu ci avevi la data di consegna. E noi il giorno della data di consegna abbiamo lavorato fino alle 8 di sera per terminarlo e per consegnarlo. E c'era tutta questa gente che è della zona rossa e non hanno fermato, vedi? E lì era proprio da fermare, vedi? Per farti capire, no? Ma noi abbiamo parlato di Urbia, non lo sai che io ho un lavoro ad Urbia, no? Che tu ben conosci. Eppure io ero a Sassari, e cosa ci siamo, eravamo al telefono noi, io a Sassari e sono dovuto andare ad Urbia perché hanno fermato i lavori, capito? che ti circondavano erano di tante varie città, ok? Però io con un cantiere dentro Olbia mi sono dovuto fermare, sono ancora fermo, esattamente a San Semplicio, perché la legge non mi permette di poter lavorare in quel circondario, perché è appunto un circondario a rischio, tutto lì, capito? Per quello che lo sto dicendo. Sì, ma Claudio, allora, ma guarda, ti faccio un altro esempio stupido, noi abbiamo anche i muratori ce li abbiamo tutti a casa, ok? Perché i muratori lavorano vicini uno con l'altro, ok? Quindi non è che un muratore quando gli dà l'impasto si avvicina, allora noi abbiamo una quindicina, una ventina di muratori e manovali, e sono tutti fermi qui, capito? Perché stanno vicini, non possono lavorare, hai capito? Su quello ti do pienamente ragione. Ma noi che siamo ognuno nel nostro mezzo, ok, a distanza uno dall'altro, perché uno è in casino, l'altro, noi mangiamo dentro al mezzo, non siamo a contatto con nessuno, ecco perché sicuramente non gli hanno dato il decreto di fermare. Massimilia, sicuramente quello lì, ma nel cantiere di Olbia io non ho potuto far niente, sono andato, ho parlato con Settimo perché ci conosciamo e mi ha detto no, assolutamente no. La circolare mia è molto chiara, il lavoro è lì ed è molto a rischio. Se fosse stato magari più isolato avrei anche fatto continuare, ma così no, non si può, infatti ho dovuto bloccare il cantiere. Vabbè, ok, dai, si parla di queste cose, ben vengano, purtroppo siamo in queste condizioni, allora bisogna fare molto attenzione. Io Massimiliano, la cosa che ti ho detto per telefono, te la ripeto, te la ribadisco sino a quando sarà finito, bocchi aperti, massima attenzione, non ti posso dire altro. Avanti Gianni, riprendi tu, ci sentiamo dopo. Ciao Eugenio e ciao anche a Claudio, dai Claudio, dai. E Massimiliano, io capisco il tuo problema, io ho mia figlia lo stesso che a Bologna e mi ha detto papà io sono a rischio perché lì è praticamente nel sociale e va negli istituti e questo e quell'altro, immaginati le persone che ci sono e non hanno le mascherine né nulla, non gli hanno fornito nulla ancora e quindi diciamo che sta andando a lavorare ma sta andando sempre con la paura. Beh, io sono a rischio come tanti altri. E io al macello comunque mio, già, cioè anche noi vedi a viaggiare, viaggiamo su un pulmino da 9 persone, siamo in 6, perché devi avere questa distanza da uno dall'altro. Che poi il nostro rischio è solo il viaggio, perché poi io una volta che arrivo nel mio scavatore tutto il giorno sono da solo, chiuso, non sono a contatto con nessuno, capito? Però tu mi dirai, ce n'è uno infetto, ti può contagiare, cose. A noi ci forniscono queste cazzo di mascherine, ma sono tipo quelle verdi che usano nella sala operatoria, non sono questo granché, ci danno i guanti, ci danno il detergente per lavarsi le mani e tutte queste cose te le danno. Però non è che se perché ti danno queste cose non si ha visto, si ha rischio lo stesso. Dato di 5 minuti fa, 90 infetti a Sassari. Mia Giuseppe, dai, comunque riti per il momento, poi se vuoi rientrare siamo qua. E Massimiliano è un casino, anche viaggiando in pulmino in sé siete sempre attaccati, per quanto sia un metro di distanza non c'è l'uno dall'altro. Ah già c'è, e a voglia che c'è, ho già, ma stai scherzando, c'è neanche di più di un metro. Però uno sta un po' attento, già, in pulmino si parla il meno possibile, capito? Giusto per anche per questo fatto qua, capito, dalla saliva e le cose. Ciao Giuseppe, buonasera, buon tutto quando la fa, ciao Eugenio, anche scusa non ti ho salutato prima. È un casino comunque, è un casino già, questa cosa è veramente un casino. Adesso hanno chiuso il reparto delle dialisi a Sassari e il reparto urologia, sono tutti positivi. Ma più vi rendete conto che siamo passati a 10 in più in 24 ore a Sassari? Cioè, quindi c'è qualcuno che sta infettando a tutto infettare? 60 in più, qua sto dicendo, cazzo, eravamo a 35, 60 in più in 24 ore, cazzo, no, oia. Un casino, specialmente chi lavora a contatto negli ospedali, è un casino. E soprattutto se si ammalano i dottori, gli infermieri, chi è che assiste le persone? E quello è il problema. 70 denunciati ci sono già a Sassari in 24 ore, ho intervistato il comandante dei vigili urbani, dottor Serra, Gianni Serra. Dice che non le tolgono piedi, che siamo degli imbecilli, 70 denunce penali mi hanno fatto a Sassari, gente girando, facendosi cazzi suoi, bisogna rimanere a casa. Senza andare tanto lontano, oggi c'erano due ragazze sedute nel muretto parlando tranquille, una fianco all'altra, ci mancava poco si baciassero pure, oia. Ho detto mica se ne frega, quelli che portano, che fanno venire la virulenza a Sassari, gasso. È vergognoso, ha ragione Giulio, c'è un'ignoranza che non viene bene a dirlo, ma non è possibile che in 24 ore ci siano altre 30, altre 60 infetti, in 24 ore, in 48 ore, ma dove vogliamo andare? Noi non ne buchiamo più peli, non ne buchiamo più peli. Oh Clava, guarda che io stasera quando sono arrivato dove lascio la macchina che tu sai, allora c'era una signora, 45-50 anni, con due figli in giro col cagnolino, cioè mandi voi li manda. Per carità che schifo, guarda, io mi sto scendendo col cane proprio a quest'ora qua nel mio giardino, proprio dentro casa mia, non faccio un passo nel marciapiede, proprio per evitare queste cose, e quando scendo mi copro tutto, quando sale il cane, ho comprato l'euroclorina, mi ho fatto una bottiglia proprio per il cane, come sale mia figlia le pulisce le zampe, tutto lo disinfetta, e questi bastardi cazzo vanno in giro col cane a passeggiare anche con i figli, ma non si vergognano. È un problema, sta diventando comunque, ma per me comunque, per me c'è qualcosa nell'aria, che cazzo è impossibile, ma una cosa del genere, cazzo, questa cosa è mondiale, quindi non può la gente, cazzo, infettarsi uno con l'altro, per me c'è qualcosa nell'essere, tu? È nell'aria, non c'è niente da fare, stanotte c'è un'altra disinfettazione, hanno fatto tutta la parte bassa, adesso lo fai tutta la medio alta, diciamo poi la parte alta, dalle 22 in poi. È uscita anche la macchina di non parcheggiare in zone dove appunto devono disinfettare. C'è una cosa che non ne togliamo piedi, è preoccupante ragazzi, è veramente preoccupante. Qui c'è la fine del mondo. Bravo Clavo, è proprio quello che dire io, bravo, è proprio la fine del mondo. Se la gente si sta a casa, tutto finisce, ma se la gente se ne va in giro, il contagio continua, non finisce più. Cazzo, loro altre 4 ce ne sono Latte Rocce, di questi 60, 4 sono del Latte Rocce, c'è una cosa vergognosa, ieri, avanti ieri, eravamo a 30 persone, e poi il più erano medici e paramedici dell'ospedale della cardiologia, cazzo qua ci sono persone, 60 persone infette in 48 ore, ma dove cazzo vogliamo andare così? Non andiamo da nessuna parte, siamo in galera, è la fine del mondo. Allora qua mi dice Sardegna, 72 positivi in più di un solo giorno, oggi più che mai, restate a casa, ciao Lu. Ciao Massimia, mi sa che la stessa sono intorno ai 70-75 mi pare. Comunque Sassari era più colpita dalla Sardegna. 6-3 fanno 9, non so 75, sono 90 Lu. Hasta 90 sono assati, forza paletta. 90 sono, 60 in 48 ore. Che problema grande è questo ragazzi, questo è veramente un problema grande, noi ti mangiamo uno con l'altro. Ma tu Massimiliano per il lavoro che fai, vabbè, è molto pericoloso, ma per tutti comunque, secondo me io sono qua che stavo ascoltando a Radio McCloud, secondo me ti cubano i puliti di malattia, se la piglia in come ti possiamo chiamato per ti fare i giuri. Non è che ti ringrazia l'ubura la malattia tu, no? Non funziona così, lo deve capire. E poi c'è una cosa Massimilia, che tu hai una famiglia, non è che sei solo per dire, no? Magari cazzo, ti ammali e contagi la famiglia, non è giusto. Poi c'è meglio che ti metti in malattia come ha detto Claudio e poi ti metti in quarantena. E la cosa che devo mettere a fare in quarantena se non sono infetto? Vabbè, comunque non puoi uscire. Poi ti vengo con lui, no, ma non è perché siamo a casa. Come ci fai tu? Amateci. io non sto uscendo niente, proprio zero completamente, solo, ti ripeto, casa lavoro a casa. Sì, no, su questo vedo pienamente ragione. Similia, ma allora, il discorso che tu vai a lavoro anche quello, sei a rischio, capisci, quello, vedi tu. A me, la verità, qualche volta me lo sono fatto, me lo sono portato a casa e fatto. Poi stamattina abbiamo chiamato, penso che ci sarà un telefono, una signora. Sì, poi l'ho chiamata di nuovo e gli ho detto non c'è la bocca. Non mi fido, perché ho mia madre che ha tante patologie e non vorrei fare danno, dai. Sì, è vero, è vero. C'è poi da passate. Oh, sì. Siamo proprio messi, proprio di dalla merda siamo. Vabbè, che ci è rimasto qua? Tu, poi già mi c'è anche. Già ci sono, ci sono. Oh, yeah. A me questi discorsi mi razzistano sempre di più, perché cerco sempre di ascoltare, penso sempre che ti dicano l'indomani sta migliorando la situazione, invece vedo sempre che peggiora. E non mi dà tregua, sempre una cosa peggio dell'altra. Tutte le notizie che ti danno sono una peggio dell'altra. Per cui, cioè, ti puoi immaginare, ma penso che siamo tutti così. Allora, non mi ricordo dove, comunque qua in Italia, hanno fatto vedere un video, questa palestra che praticamente l'hanno chiusa, perché purtroppo in palestra ci sta che c'è molta gente che si allena, sono vicini, la stanno usando come camera mortuaria. Hanno fatto vedere un video di bari chiuse e di gente in male la morta. E poi li stanno portando con il camion dell'esercito, li stanno portando a cremare in un altro paese, perché sono tantissimi e l'unica soluzione è cremarli, bruciarli, perché ma ammazza tutto, capito? Ammazza il virus. Sì, perché poi è una cosa bruttissima, guarda. Perché guarda, 5 anni non ho mai visto una cosa del genere, ma poi anche voi alla fine. Cioè, cosa da fare? Ti muore un parente tuo, non te lo fanno vedere, niente, zero. Nulla, tutto sparisce. Non cosa da fare? Non li fanno manco il funerale, niente. Veramente, guarda, non ho parole. Non ho parole, perché dove siamo arrivati? Vabbè, dai, riprendi qua. Il bello è che se anche dovesse migliorare la situazione non puoi andare manco a piangere le pareti, anche lì sono bruciati tutti in pari, lo sai di chi sono le ceneri, né niente. Quello, la cosa triste veramente, triste. Allora ragazzi, a me mi hanno chiamato giù, forse sicuramente è pronto a cenare. Ci sentiamo, dai. Vi saluto, buona serata, buona cena quando la farete a tutti quanti. Vi saluto anche chi è in ascolto nel canadese. Ciao, vi saluto, ciao. Ciao Massimiliano, dai, speriamo che domani la situazione cambi, almeno di un po', io non dico tanto, ma almeno un pochino. E Dio ti ascolti. Ciao Massimiliano, alla prossima, dai, buona cena. Capa Luca, riprendi, dai. Luca. Viaggia, che stavo mettendo il jeans a lampare. Già, è un casino. È un casino grande. Io molte volte, vabbè, già faccio qualcosa, dai, per distrarmi, altrimenti è critica la cosa. Dove sta a fare, devi saldare, sono una scheda, metto tutti i componenti, è morto il tempo così. Oppure devo telefono, giocando, che devo fare? Tanto non ho altro che non ho altro da fare, come devo qua a fare, come vado un po' di là, prendevo marina. Intanto diciamo. Sì, no, io già ne ho da fare a casa. Pulire, fare, solo che a questo periodo non è che me la sento tanto, quello che posso faccio, lo dico la verità. A casa un po' la sto trascurando, ma ogni tanto pulisco qualcosa, faccio la cucina, i bagni, le cose essenziali, dai. Non mi metto a spolverare perché proprio poi vado allo stremo, dai, delle forze mi fa male la gamba, quindi mollo tutto. Ma infatti, fa la metà. Invece, non potessi chiamare qualcuno a farti le pulizie? No, non vi voglio mettere nessuno in casa, se non è qualcuno che conosco, ma non mi piace mettere gente esterna in casa, dai, dico la verità. No, quando c'era Manuela me lo faceva lì, però poi Manuela è partita, adesso è anche incasinata, mi ha scritto un papà, sono molto a rischio perché stiamo andando nelle comunità, lì lo sai che cosa fanno, che mestiere fa, fanno le comunità educatrice, praticamente dice che non gli hanno fornito le mascherine, nulla, cazzo, sono in mezzo alla gente così, stanno usando mascherine loro, quelle che c'hanno da casa, capito? Vabbè, meglio parlare di altro tanto. Guarda, quel video che ho visto delle mare, delle persone morte, della marella, guarda che mi ha scosso, eh. Oh, vabbè, mi fa piangere tutto, ogni volta che vedo mi scendono le lacrime, ci credi. Comunque sta gente che non ha certa età, ma che giovane già è morto, quello sì, ma la gente di una certa età. No, ce ne sono anche di 45 anni, di 40 anni, l'hanno detto, non è solo gente di una certa età, lui, ma futtidini, cado di bizzegrigia, Io poi ho 60 anni, non sono giovane, quindi posso anche preoccuparmi. Lo so, beh, anche io non sono tu, io ne ho 45, è un casino, mamma mia, ma non c'è Claudio uscito, Claudio. Io stavo sperando che essendo un'isola, c'era il mare che ci separava dal resto dell'Italia, ci saremmo scampati un po', invece peggio di darti lui. Mi vedi, adesso ho letto, aspetta, allora, coronavirus, scendono in campo le forze armate, arriva l'esercito, aspetta, allora. Un attore di certo di tutto, che lo chiede al governo per l'esercito. E un altro momento l'esercito già li vedrai. Lo so, è morto anche un carabiniere oggi. Morto un carabiniere di coronavirus, anche giovane. E adesso lo sai cos'è l'unica cosa? Come ti rivedi in carriera qui le manganellate a capo e a ritardi. E tanto non vogliono capire con le buone, bisogna usare i mezzi come fanno in Russia, che chi trovavano prendevano e arrestavano, chi trovavano in giro. Così bisogna fare qua, siccome la gente è talmente ignorante che non capisce le cose con le buone, bisogna usare altri mezzi, capito? Bisogna usare mezzi come usavano i fascisti, che me la ciappi in carriera, la metta giù, sa manganello e la rischia. Che ne fa? Che ne fa? Io credo. Non ho parole, veramente, non ho parole. Su Facebook un giro di casa, uno che aveva dietro casa, alle due di notte, avete cinghiali lì dietro casa, già passeggiato. E anche vicino a casa c'erano nei cassonetti via Nulli, la firmati nipote di Marco, dell'amico mio, c'era la madre, perché vicino a casa nostra è possibile, ma in Piazza d'Italia è un casino, non c'è campagna lì. Quelli vicino a casa nostra, sai dove esco? Dalla Pinetta che c'è via Prati. Sì, sto guardando un video adesso già, sanificazione dei mezzi pubblici. Adesso stanno chiedendo di sanificare anche le strade. La storia delle scarpe la sai che te le devi togliere prima di entrare in casa, eccetera, eccetera. Sì, e tu lo fai, vabbè, io non l'ho fatto ancora. No, Marco lo fa, mio figlio, quando rientra si toglie le scarpe, si mette le ciabatte e le scarpe in terrazza. Sì. Belga, ma non sono le scarpe, anche i vestiti allora. Ma siccome non sappiamo da dove provenga questo, se dall'aria, se da dove sia, stanno usando tutte le precauzioni, però mi pare che siamo messi, se non scoprono qualche cosa subito, di qua andiamo male. Lo so, sono tutti a rischio, si sa ma chi sta a casa, diciamo una buona percentuale, ma chi esce, tipo me, vabbè io già con la mascherina, ma alla fine sono di piatto tutti i guantetti. Ma la mascherina che usi tu, vuole cambiare ogni giorno, mi sono monouso quelli, non è che le puoi usare 100 volte, no? Lui invece, noi per dire a casa la stiamo usando sempre una, perché ne abbiamo una, non sono arrivate, non ce ne trovi da nessuna parte, cosa fai? Perché a casa la usi? No, a casa no. Ma questa qua non è di casa già, non è di casa. sono quelle più grosse, capito? Manco la nostra è di calza, la nostra è quella che c'è il segno del naso, eccetera, eccetera. Che quando te la metti sembra che sia una papera, ti fa il becco. No, questa qua le usano, adesso che le usano queste qua? Un amico che lavora al comune, dai, quando vanno a fare e dei lavori usano quelle. Le disinfestazioni? No, no, no, no, tipo lavoro, lavoro comunale, lavoro di manovalanza, dai. Ah, è per le polveri sono quelle lì. Ah, va bene, come sono, meglio di nulla già. Ogni tanto sentiamo di acqua, di no. Sì, sì, sì, se è meglio di nulla, sì. Però ci sono, sono le F2 e le F3 che sono le migliori, migliori. E sono quelle che sono proprio adatte per queste cose. E sono antivirali. Se non trovate la mucchina, comprate l'eroclorina. Già le conosci, tu c'ho quelle bustine che diluisci nell'acqua. Io ho fatto una bottiglia d'acqua, una bottiglia di plastica igienizzata, di acqua, due bustine di clorina, l'agiti e c'ha è profumata, però c'ha profumo di cloro, capito? Allora, tutto ciò che contiene ammoniaca va bene per disinfettare. Se tu ipoclorito, gente che contengono ammoniaca, però ti posso dire grassa, anzi, tutte queste cose qua, che contengono l'ammoniaca vanno bene per disinfettare, almeno le scarpe quando torni, metterli in uno straccio e disinfettare le zappe del cane, capite? Solo che il cane poi si lecca, lo batterisce. No, l'eroclorina non fa niente al cane, l'ha detto il medico, è un disinfettante naturale, non fa assolutamente niente, ma è valato per il dito a me, anzi. Non fa assolutamente niente, no, il ipoclorito di sodio è troppo forte, Marti. È troppo forte, anche se tu, io per questo inserio ne ho quanto ne voglio, vado alla chimica serve a me in milioni, non è un problema, ma è troppo, fa troppa puzza, capito? Anche se tu la diluisci all'1%, è troppo potente. L'eroclorina invece è in bustine e va bene, è un disinfettante anche per i bambini, figurati. Vabbè dai, vi saluto. Ciao Massimiliano, Marco, Gianni, Luca, Natalino, chiunque fosse su 10, dai. Chiudo una giornata bella e bene, Burrica in radio. C'è un bel indigestione. Ciao a tutti, QRT, a domani. Auguriamoci di starci a lungo in radio, Claudio. Buonasera. Non sono andato mattina, già alle 9:30, avevo tutto acceso, ho fatto HF, VHF, VHF, digitale, di tutto ho giocato. Basta, ne ho le balle mie, ero in conferenza anche con Stefano, un'ora da Olbia, lui a Olbia, segregato a casa anche lui, e eravamo in radio in proprio parlando e facendo, quindi. Ok, vabbè, dai, ci sentiamo, ciao a tutti, Massimiliano. Mi auguro che questa cosa finisca, per te, per me e per tutti quanti. Perché veramente non mi boccio più. Riprende, fai girare QRT per me. Ciao a tutti, buonanotte. Massimiliano ha fatto QRT. Ciao Claudio. Io ti ho detto, auguriamoci di stare in radio. Vuol dire che siamo vivi ancora. Non è compreso. Va bene, dai. Buonanotte, ci sentiamo. Avanti, avanti. Eia, ciao Claudio, dai. Alla prossima, domani. E già, anche io ti saluto, mia Maria. Che cucina, a cenare. Senti in bimbo già. A domani se vi ho cuore, dai. Tanto non c'è rimasto più nessuno, vabbè, però te lo può chiedere comunque che vado a cenare. Ehi, allora, ciao, ciao, chiudo anche io, così vi ascolto chissà balanoia del telegiornale. Ciao, belli bè, ciao. Ehi, avanti, dici, da pizzo, da pizzo. Ehi, stavo ascoltando già, stavo mangiando, dai. Io non ne guardo più perché tanto i giornalisti sembra che te lo facciano apposta a ingrandirtelo anche 100 o 1000 volte. Guardo le notizie dal sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e boh, i giornalisti sembra che lo facciano apposta, che ci godano. Ciao Lu, ciao Gianni, ciao Claudio e tutti quanti. Mi, stasera mi sono fatto un hamburger veloce con formaggio, patatine fritte e salsa rossa, fatto al pasto. Roba leggera. Eia, per combattere il virus dobbiamo essere forti. E diciamo che con la sfida del virus siamo mangiati un bel... È vero. è vero, noi stavo per dirlo già, quello che mi preoccupa è la sedentarietà, perché vabbè io sono sedentario, però grazie a Dio uscivo di più anche per andare a uffici. Adesso mangio e sto seduto o sdraiato, vedrai quanti chili prenderò io personalmente. Ciao. Va bene, ciao Giada, buonasera, ci sentiremo oggi, era un po' indaffarato, dai, ciao a tutti, ciao ciao. Ehi, ehi, ciao Marco, auguriamoci bene, dai, la cosa sta peggiorando di brutto a Sassari. Sì, perché c'è, li ho visti io anche due billoi giovincelli assieme, che stavano andando non in farmacia, non al market, stavano andando tipo a una materia crisi lì dove spacciano, dove c'è spaccio, senza mascherina, nulla, ti ne fotti. È che a me non piace fare il delatore, stare a telefonare, a segnalare questo e quello, non mi va. Lo facevano, i delatori c'erano nei tempi dei fascisti, capito? Ma già li hanno sistemati dopo, quando è finito il tutto. E infatti. Vabbè Marco, c'è gente senza testa, cosa vuoi fare? Sono quelli che stanno facendo aumentare le cose qua. Testi di merda. Vabbè, dai, vabbè, dai. Ci sentiamo, auguriamoci che domani sia cambiata la cosa in meglio, dai. Ciao, ciao, ciao, ciao.